Ma se suo padre le dice vota questa cosa qua, che è una cosa importante, lei che fa? Naturalmente non è che siccome gli dici di votarla la voto, valuto, approfondisco, capisco, condivido anche con questa classe dirigente di giovani e insieme a loro decido se Vabbè, votarla quando o no. qualcuno le dice Non figlio di papà, per merito di tuo padre sei passato da 0 a 14.000, lei come risponde? è. Che vuol dire 14.000? Che cos'ha? Euro, Euro. soldi, Ah, i soldi. piccioli, piccioli. Ma vi sembra assurdo, non me ne frega niente di questi 14.000 euro, non mi interessa, Beh, non insomma, è un un lavoro pensierino, un per la quale si pensierino. fa politica, dobbiamo smettere di Ho dire queste capito, ma cose. So un che ci sono tanti banditi e tanti personaggi che fanno politica soltanto per i 14.000 o per i 12.000, ma vi garantisco che queste persone non stanno soprattutto nei A lei consigli non gliene frega regionali, niente, stanno no? a Roma, stanno, che sono gente, come ho detto Beh, l'altra pure nei volta, consigli che regionali erano non è prima che. porta a borsa, autisti, sgualdrine che giravano nei partiti, oggi sono onorevoli, quelli fanno gli onorevoli per i Chi sono 14.000 euro, le io non lo sguadrine? faccio Chi sono per le fare sguadrine? questo. Chi sono le No, non lo sguadrine? so, dico, il Parlamento nazionale penso sia pieno di tanti personaggi ambigui, se vogliamo dire così, Pieno quelli di non sono sguadrine, politici, pieno di chiamate sguadrine. quelli e chiedete a quelli dei 14.000 se sono candidati per No, ma io non è che le ho 14.000. chiesto niente, ho detto fa impressione passare da 0 euro a 14.000 o no? Certo, che fa impressione, ma ci mancherebbe, ma voglio dire, a me fa molta più impressione e fa molto più piacere passare alla possibilità di sedere nel Parlamento più Vabbè, antico d'Europa e certo. fare delle leggi utili alla Sicilia, questo mi fa molto più impressione e questo voglio fare. 14.000 non me ne frega nulla, onestamente, perché certamente non ho la necessità di guadagnare 14.000 euro, perché grazie a Dio me la passo bene, non è questa l'esigenza, Se la giusto? Su passa questo ci bene. siamo, no? Benissimo.